Adesso io non do la parola, ma la restituisco la parola, perché colui che avrebbe dovuto, dovrebbe qui al centro tenere la parola, è Giuseppe Capraro. Va bene, lui si umilia e io invece faccio un atto di doverosa riverenza, il quale ci riferirà appunto in base anche al lavoro da lui compiuto per allestire le preparazioni e questo convegno, ci riferirà più direttamente su quello che sociologia, teologia, giustamente qui ha messo invece il soggetto, sociologi e teologi devono, hanno fatto, dovrebbero fare in rapporto al grande tema del futuro. Ti do la parola per la tua mezz'ora, i tuoi 30 grazie. Minuti, poi avremo il dibattito. Introdotto dal professor Costantino Cipolla, che ringrazio di essere intervenuto ai nostri lavori, come del resto ringrazio tutti i relatori di aver accettato la proposta di offrire una relazione a questo convegno e tutti i presenti. Rinnovo l'invito a chi non avesse già ritirato la cartella di farlo, e accanto alla cartella è possibile anche ritirare copia del dossier Sociologia e Teologia di fronte al futuro. Eventualmente, se non è già pronta e predisposta la copia, lasciare l'indirizzo che viene inviato a casa. Io mi rifaccio al testo che è inserito in cartella come sintesi ragionata dei lavori del workshop del 3 marzo 1994 qui a Trento, del 23 marzo presso la Facoltà Teologica, biennio di licenza in teologia pastorale a Padova. Lì vedete nome e cognome di sociologi e teologi che sono stati protagonisti delle due discussioni. Io non li leggo tutti, ne citerò qualcuno, ma in realtà si tratta appunto di un'esperienza relazionale tra soggetti con specifiche competenze. Ho preparato un testo che leggo e così mi auguro di essere più preciso e nello stesso tempo anche di rispettare i tempi a me confidati. Il tema del futuro della religione e dell'umanità sta diventando un'area significativa del dibattito culturale, che trova spazio anche sulle pagine dei quotidiani italiani. Ne sono una conferma due articoli che hanno suscitato un certo scalpore e hanno attivato una discussione serrata. Il primo è l'intervento di Sergio Quinzio sul Corriere della Sera del 5 febbraio di quest'anno dal titolo provocatorio «Ecco perché la fede cristiana non ha futuro nella storia». E il secondo, a firma di Umberto Folena, su Avvenire del 19 marzo, titola «Apocalisse in una tinozza, fandoni di chi confonde tra la speranza e la fine». L'autore ha inteso rispondere con questo pezzo al mensile 30 giorni, che a sua volta se l'era presa con mistici, cito, apocalittici e propagandisti del terzo millennio, tra cui figurava anche Giovanni Paolo II. A fronte di questo interesse, per la verità piuttosto polemico e a volte strumentale, gli interrogativi sul futuro non sono decollati in pienezza nel corso dei due workshop che si sono svolti, appunto, come dicevo, a Trento e a Padova, in preparazione a questo convegno. Da una prima valutazione si possono individuare, tra gli altri, tre motivi del difficile avvio del confronto. Una prima ragione sta probabilmente nell'incontro stesso. Infatti, per la prima volta in Italia, sociologi e teologi, in numero così elevato, sono convenuti per discutere di un argomento comune, partendo dal rispettivo punto di vista. È venuto subito al pettine in modo epistemologico il problema, di ben più ampio respiro, del rapporto tra fede e scienza, che nel contesto relazionale del colloquio è stato ridefinito come rapporto tra credenti e non credenti, perché da un lato i teologi sono credenti per definizione e i sociologi, secondo l'approccio dell'ateismo metodologico, dovrebbero agire nel loro lavoro scientifico come non credenti. La discussione si è arenata su questo tema con posizioni di difficile integrazione che hanno sottolineato l'esigenza di una fondazione epistemologica adeguata del confronto tra sociologia e teologia, e ringrazio i due professori Donati e Privitera per aver tenuto appunto una relazione di alto spessore culturale e scientifico proprio su questo tema. Una seconda ragione si può trovare nella partecipazione relativamente scarsa di teologi al workshop di Trento, in particolare di teologi dogmatici e pastoralisti, presenti invece in numero più significativo a Padova. A Trento c'erano piuttosto biblisti e moralisti. Infatti, se la sociologia studia l'azione sociale per spiegarla causalmente e comprenderla nelle sue origini e nei suoi effetti, secondo la nota definizione weberiana, il suo discorso sul futuro è solo derivato, in seconda battuta. La sociologia, infatti, si limita a elaborare tendenze, micro e mega trends, fa proiezioni e previsioni, con l'attenzione rivolta però sempre al presente e alle decisioni da prendere qui ed ora. Si confrontino in proposito gli interventi di sociologi Gubert e Gasperini, presenti a Trento. La teologia cristiana, invece, ha una dimensione escatologica essenziale, la riserva escatologica permanente, per dirla con Metz, o la tensione verso la pienezza del tempo, per dirla con Monsignor Sartori qui presente, che consiste nell'annuncio e nella realizzazione del Regno di Dio. In questo senso i teologi biblici hanno parlato a ragione e con competenza della profezia, si confronti l'intervento di Antonio Marangon, mentre i teologi moralisti, Giuseppe Trentin di Padova l'ha fatto, hanno trattato il tema degli ideali di vita, dei valori normativi e dei comportamenti ritenuti più idonei per realizzarli, ma nel complesso i contributi dei teologi a Trento sono stati meno numerosi di quelli dei sociologi. C'è infine una terza ragione che può spiegare il non facile decollo del confronto tra sociologi e teologi sulle prospettive future. Essa è interna alle rispettive discipline di riferimento e chiama in causa direttamente le teorie della secolarizzazione. Si confronti in proposito l'intervento di Gustavo Guizzardi, presente qui a Trento. Questa categoria, secolarizzazione, con la varietà di approcci che essa sottende, è tutta rivolta non solo ad interpretare lo sviluppo storico-sociale delle istituzioni religiose in Europa e delle loro autocomprensioni teoriche, ma anche ad elaborare delle precise previsioni sul futuro, quali ad esempio l'eclissi e o la scomparsa del sacro, la morte di Dio e la religione immanente dell'uomo. Proprio l'osservazione attenta del presente consente di rilevare come Dio non sia morto, e anzi come gli stessi ambienti, tra virgolette, secolarizzati, cioè quelli più marcati dalla razionalità tecnica e strumentale, producano nuove religioni e nuove magie. Per questo è giunto il momento di andare oltre la secolarizzazione e di porsi magari lo stesso problema, il futuro della religione e della società, ma con nuove prospettive di soluzioni e soprattutto con nuove concettualizzazioni. Mentre la teologia, specie da Karl Rahner in poi, ha conosciuto la svolta antropologica, tocca ora alla sociologia, e in particolare alla sociologia della religione, incamminarsi verso una svolta che la porti al di là dell'ateismo e dell'agnosticismo metodologico, per poter analizzare in termini scientifici la relazione con il trascendente. Nell'ultima opera collettanea dei sociologi della religione italiani, Immagini della religiosità in Italia, che è stata presentata a Trento al termine del workshop del 3 marzo, si può cogliere, come ha fatto acutamente notare Achille Ardigò, una svolta teorica nell'impostazione della disciplina. Infatti la religione non viene più interpretata solo come fatto sociale, secondo la tradizione sociologica classica, e quindi spiegata con fattori esterni ad essa, cioè in termini storici, strutturali e culturali, enfatizzando così i suoi effetti di integrazione e di legittimazione, bensì come esperienza religiosa e in particolare come relazione con il trascendente, che viene attribuita a fattori antropologici, prima tra tutti il limite esistenziale dell'uomo e la sua costituzione biologica, o per usare un termine che sta tornando alla ribalta, la sua costituzione, tra virgolette, naturale. Si confronti al riguardo la posizione dell'ultimo acquaviva proprio sulla religiosità naturale. Anche il professor Renzo Gubert, nella sua interpretazione conclusiva dell'indagine sui valori degli italiani tra postmodernità e neotradizione, elabora l'ipotesi secondo cui un paradigma storicista non è sufficiente per spiegare in modo adeguato i risultati raggiunti, ma è necessario postulare una tensione all'equilibrio tra opposti, iscritto nella, cito, natura umana. Quindi esperienza religiosa Infatti il trascendente viene percepito dalla persona che lo sperimenta come altro da sé, in grado di offrirgli una risposta plausibile e radicale ai suoi bisogni fondamentali di senso e di compagnia. Questa impostazione viene confermata anche dalla radice etimologica della categoria religione, che può essere ritrovata nei termini latini releggere, produrre significati, e religare, assicurare rapporti. Uno degli esempi più chiari dell'analisi classica della religione è proprio la sociologia della secolarizzazione, così come viene elaborata ad esempio da Brian Wilson e Niklas Luhmann, più volte citato dal Donati, e riproposta a più riprese da Karel Dobelaere nella sua interpretazione dei risultati dell'European Value Study. Questo autore, Dobelaere, spiega il decremento della religiosità in Europa con due fattori esterni ad essa. La differenziazione sociale, che comporta la specializzazione funzionale dei vari subsistemi istituzionali, e, secondo, la individualizzazione subsistemi funzionalmente differenziati. Ne consegue l'enfasi della razionalità strumentale o formale nel contemporaneo processo di societarizzazione, che si oppone alla Gemeinschaft e alla razionalità sostanziale o valoriale propria della religione. Quest'ultima viene così a perdere rilevanza sociale e prestigio culturale e si avvia verso un inesorabile declino. In una prospettiva analitica di questo tipo non c'è spazio per l'interrogativo sul futuro della religione, che è già risolto nelle premesse teoriche e nelle loro ipotesi interpretative. Secondo quest'ottica si sono mosse le tre stagioni della sociologia della religione in Italia, che hanno preceduto quella attuale, segnata invece da un'attenzione peculiare all'esperienza religiosa e alle sue dinamiche interne ed esterne ad essa. Mi riferisco innanzitutto, riprendendo il profilo storico di Carlo Prandi, allo studio della religione come istituzione sociale, che ha privilegiato in particolare la religione di chiesa, ricordo in proposito i sociologi Burgalassi, De Marchi, Grumelli e lo stesso Acquaviva, assieme ai più giovani Pace, Garelli e Martelli. E poi seguita la stagione dell'analisi della religione come gestione e controllo del sacro, in quanto fenomeno sociale polivalente, che è stato studiato con approcci metodologici differenti, come ad esempio nelle teorie del religioso implicito di Nesti e della religione diffusa di Cipriani. La terza stagione è quella inaugurata da Gustavo Guizzardi con la sua sociologia politica della religione, o teoria del campo religioso, in cui egli focalizza la sua riflessione sulla relazione di dipendenza dei fruitori di beni e servizi religiosi dagli specialisti di chiesa che li producono. Infine, solo da qualche tempo si è iniziato a parlare di esperienza religiosa, e non solo in termini fenomenologici. Lo fa con autorevolezza Acquaviva, senza peraltro abbandonare del tutto la sua teoria della secolarizzazione, in definitiva la sua prospettiva immanente, sempre però con un'impostazione non conclusiva. Infatti l'ipotesi della trascendenza rimane ancora una possibilità aperta, che comunque egli non approfondisce. Acquaviva interpreta invece l'esperienza religiosa, per la quale rispolvera, come detto, il concetto di religione naturale, come sublimazione psicologica dei bisogni fondamentali dell'uomo: amortalità, bisogno bioprogrammato, amare ed essere amati, conoscere e dotare di senso. Si tratta in definitiva di un'interpretazione in termini psicologici, del tutto immanente all'ambito culturale e storico, la natura dei bisogni che la cultura sublima. Invece Thomas Luckmann, sociologo della religione di Koblenz, affronta in modo esplicito il tema della trascendenza e ne interpreta la prospettiva in chiave sociologica. L'individuo è l'elemento sociale universale che qualifica come religioso nel trascendimento della natura biologica dell'uomo, per cui, cito, il processo di umanizzazione, cioè di costruzione del sé, è un processo religioso. L'individuo biologico per diventare, finita la citazione, l'individuo biologico per diventare persona ha bisogno di relazionarsi a dei sistemi di significato in cui si oggettivizzano gli universi simbolici che, cito ancora, fanno riferimento sia al mondo della vita quotidiana sia a quel mondo che viene sperimentato come trascendente la quotidianità. Fine della citazione, cioè alla grande trascendenza, il trascendente per antonomasia, che non fa parte della realtà ordinaria. Lukman introduce a questo punto il concetto di identità personale, che definisce come la forma universale della religiosità individuale, e analizza il processo di socializzazione in cui sono coinvolte le religioni istituzionali e le chiese storiche, garanti della memoria e impegnate nella riproduzione continua del loro specifico messaggio religioso. Si sa che per Lukman la religiosità individuale è invisibile, in quanto alberga nella coscienza personale di ciascuno e concorre a definire la sua identità. Essa però non esclude sia la visibilità delle religioni istituzionali, sia, soprattutto, gli effetti visibili delle sue opzioni, che sono empiricamente esplicitate dai comportamenti concreti che inducono. Anche secondo la sociologia di Pierpaolo Donati, come abbiamo ben sentito, sono le relazioni che consentono all'individuo di svilupparsi come persona. Il soggetto persona è eminentemente relazionale. Egli infatti è costituito da quattro relazioni fondamentali. La relazione con se stesso, relazione psicologica, che interpreta la conversione intima secondo lo schema personalista di Emmanuel Mounier. La relazione con la natura, relazione ecologica, che interpreta la seconda struttura fondante di Mounier, cioè l'esistenza incorporata. La relazione con gli altri, relazione sociale, a cui corrisponde la comunicazione, terza struttura fondante di Mounier. E infine la relazione con il trascendente, relazione religiosa, in cui si risolve la quarta struttura fondante di Mounier, cioè la libertà. In quest'ultima relazione, sempre secondo Mounier, sta la radicale dignità di ogni persona, che si eleva oltre se stessa, sorpassandosi in una produzione continua. In questo prospetto teorico si può capire come la dimensione dell'umano, e quindi anche del religioso, sia interna e nello stesso tempo esterna alla dimensione sociale. In ogni caso, umano e sociale non coincidono, ma si richiamano a vicenda con una reciprocità dinamica che rinvia ad una varietà di combinazioni possibili. Non è fuori luogo a questo punto richiamare la storia del concetto stesso di persona, termine latino che è entrato nell'orizzonte della cultura europea nel IV-V secolo, cioè al tempo delle dispute trinitarie e cristologiche. Per interpretare le relazioni interne tra Padre, Figlio e Spirito Santo, si sono qualificati tre soggetti divini come persone. Ma è soprattutto per dare una veste culturale alla loro relazione ad extra tra natura divina e natura umana che si è giunti alla definizione di Cristo come persona, cioè come relazione ipostatica delle due nature. Per cui sono molto grato a Donati di essersi interrogato sul ruolo della relazione come concetto generalizzato nei rapporti tra sociologia e religione. Esso sarà tanto più fruttuoso nel confronto tra sociologia e teologia se si tiene conto, nella mappazione del discorso teologico, non solo delle relazioni trinitarie interne, ma anche e soprattutto di quelle esterne, cioè del Cristo e della sua vicenda terrena. Infatti, la relazione religiosa tra immanenza e trascendenza, analizzata dalla sociologia della religione, trova il suo referente teologico più esplicito proprio nell'incarnazione del Figlio di Dio, proclamata dal cristianesimo. In questo orizzonte teorico è possibile finalmente rispondere alla domanda sul futuro della religione. La prospettiva condizionale della scienza sociale offre in proposito una risposta chiara. Se la relazione con il trascendente avrà un elevato significato per il soggetto, questi svilupperà una forte religiosità personale, che potrà avere particolari risonanze anche a livello di esperienza mistica. Se invece la relazione con il trascendente avrà un debole significato per il soggetto, anche la sua religiosità sarà debole e potrà sciogliersi del tutto nell'ateismo detto appunto dissolutorio, in quanto verrà meno la stessa domanda circa la trascendenza, cioè non avrà più senso interrogarsi sull'esistenza o meno di Dio. In tal caso però rimarrà comunque aperta la domanda sul significato della vita e della morte, che avrà però delle risposte per lo più immanenti. Quest'ultimo interrogativo, senso della vita e della morte, rinvia all'area della dimensione spirituale dell'uomo, configurabile anche come nostalgia del trascendente. Secondo i risultati delle indagini sociali sui valori degli europei dell'80 e del 90, si può affermare che oggi, rispetto a una decina d'anni fa, sono più numerose le persone che si pongono l'interrogativo esistenziale sul senso della vita e della morte, specie tra gli intellettuali e i residenti in città, cioè nel cuore stesso delle società industriali avanzate. Un riscontro empirico del genere e altri ad esso analoghi consentono di individuare una probabile via d'uscita dalla postmodernità proprio in quella civiltà dell'umano, il nuovo umanesimo, che sta prendendo forma sullo sfondo della frammentazione sociale tipica della modernità in crisi. Questa è la risposta, per ora possibile, al più generale interrogativo sul futuro della società. Anche lo storico Paolo Prodi, al termine del suo voluminoso saggio Il sacramento del potere del 1992, dedicato all'evoluzione istituzionale del giuramento politico in Occidente, avanza alcune considerazioni in questa direzione sotto il titolo emblematico Tra passato e futuro. Per ristabilire un'identità collettiva e la sovranità, ora frantumati in una miriade di centri di potere, giacché non gli sembra sufficiente il semplice contrattualismo tecnico e procedurale, i cosiddetti contratti di condominio, egli invoca il recupero di un corretto rapporto tra etica e politica, tra coscienza e comportamenti. A Prodi sembra in ogni caso difficile sfuggire da un lato alla banalizzazione della politica e dall'altro alla sua sacralizzazione immanente senza postulare un referente metapolitico di tipo religioso e morale. Lo sfondamento culturale dell'immanenza, che è implicito in questa impostazione storica, ben si correla con la relazione con il trascendente che è postulata invece dalla teoria dell'esperienza religiosa elaborata in ambito sociologico. Sociologi, storici, filosofi e teologi presentano delle convergenze di prospettiva anche in relazione agli altri due interrogativi sul futuro del cristianesimo e della Chiesa che sono stati problematizzati nel dossier preparatorio e ora sono offerti alla riflessione del convegno. Infatti tutti sono concordi nell'affermare che la simbiosi totalizzante di cristianesimo, cultura e società che andava sotto il nome di cristianità oggi non esiste più. È venuta meno infatti la struttura di plausibilità sociale che garantiva all'universo simbolico cristiano il monopolio della verità. Questo è il significato minimale dell'ipotesi del post-cristianesimo, che prevede anche una marcata diversità di visioni del mondo, il mercato, la fiera delle religioni, lo sviluppo della teologia delle religioni non cristiane e la necessità del confronto interreligioso di tipo dialogico o conflittuale. Inoltre, il prevalere della religiosità personale sulle religioni istituzionali comporterà la compresenza di un cristianesimo individualistico, un believing without belonging, senza quindi un'appartenenza ecclesiale esplicita, e di un cristianesimo comunitario, un believing with belonging, associato invece a un'appartenenza ecclesiale che sarà però di tipo carismatico più che istituzionale. Nel primo caso si verrebbe a realizzare quanto prospettato da Romano Guardini, già nel 1955 nel suo saggio La fine dell'epoca moderna, in cui la postmodernità è rappresentata come il tempo della fede nuda, fede priva cioè della religione. A questa prospettiva farà eco in seguito Ignazio Silone con la sua proposta di una speranza senza la fede, o meglio di una fede solo coscienziale, cioè di un impegno etico per il bene senza la certezza della verità. Sul versante invece del cristianesimo comunitario si colloca la riflessione circa il futuro della Chiesa e per quanto riguarda la teologia pratica, la prospettiva della futurologia pastorale. Questo è il titolo del volume che è stato un po' lo stimolo culturale e scientifico al nostro convegno. L'ospite, l'autore, il professor Zulehner, ecco, ci offrirà la sua riflessione e la presentazione di questo volume nella relazione conclusiva di domani pomeriggio. Mi permetto solo di sottolineare la singolare coincidenza delle posizioni di Zulehner con quanto lo storico Jean Delimeau prospetta al termine del suo saggio Due modelli di cristianesimo, che chiude la serie di contributi pubblicati nel volume collettaneo Cristianità e cristianizzazione. Delimeau delinea un futuro paradossale, perché si dovranno conciliare in una sintesi ecclesiologica e religiosa nuova i seguenti tratti apparentemente inconciliabili. Primo, la libera adesione dei fedeli e un numero sufficiente di adepti, quantità e qualità. La libertà nei confronti dello Stato e la necessità di avere un peso reale nelle cose del mondo. La possibilità di intervenire nella vita quotidiana senza essere al potere, dopo le elezioni di marzo questo è possibile, e senza però nemmeno costituirsi in contropotere. La proclamazione del mistero e della dimensione verticale del cristianesimo non disgiunta dalla permanente attenzione alle necessità orizzontali della giustizia su scala mondiale e dell'apertura alle ricerche scientifiche. La ridefinizione del governo della Chiesa, è illusorio immaginarla senza un governo, e la concertazione dei fedeli. La necessaria unità cristiana e il non meno necessario decentramento per ridar peso alle chiese locali. La promozione della donna nella Chiesa e, nello stesso tempo, il rifiuto di qualsiasi neoclericalismo, di tipo maschile o femminile che sia. Se queste sono le sfide paradossali che la Chiesa dovrà affrontare in futuro, non credo sia un paradosso concludere il mio intervento sul confronto tra sociologi e teologi proprio con la citazione di uno storico, il Delimeau, che del resto mi è stato suggerito da Monsignor Sartori nel workshop preparatorio di Padova, in conformità alla sua tendenza, notoriamente ecumenica, di allargare gli apporti dialogici e i riferimenti disciplinari. A Monsignor Sartori va il mio sincero ringraziamento per aver accettato la mia collaborazione nel coordinamento scientifico del convegno e per i saggi consigli che mi ha dato in questo impegno culturale. Grazie. Grazie. Allora, tu hai pagato una tangente di omaggio a me, io la pago a te dicendo che sei stato dentro i 30 minuti. È veramente una cosa da omaggiare in questi tempi.